Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Terremoto in Abruzzo, oltre 50 morti, dice Maroni. Sacconi invita a donare il sangue. Anche la comunità internazionale si mobilita, il presidente russo Medvedev pronto a fornire subito gli aiuti. Obama in Turchia visita il mausoleo di Ataturk. Si apre a Torino il processo Eternit, quasi 2.900 le persone offese. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano, naturalmente, non potrebbe che essere così, il terremoto in Abruzzo, le cui dimensioni, lo state sentendo anche nella lunga diretta che stiamo dedicando a questo tema, stanno assumendo davvero contorni sempre più gravi. In diretta Raffaella Calandra. Anche a mani nude si scava tra le macerie. All'Aquila, come negli altri 26 comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma, ora chi si è salvato scava con disperazione tra le rovine dei palazzi crollati. Col cellulare o ripetendo a gran voce tutti i nomi si cerca di individuare persone ancora vive, come uno studente che poco fa è stato salvato grazie al suo telefono e portato fuori dalle macerie. Ma per una storia che finisce bene, il quadro complessivo diventa d'ora in ora più drammatico. 50 le vittime già accertate, secondo l'ultimo bilancio fatto dallo stesso ministro dell'Interno Roberto Maroni in un briefing con la Protezione Civile. Il ministro dell'Interno ha voluto ripetere anche che i soccorsi sono partiti un quarto d'ora dopo che la terra ha tremato questa notte con una magnitudo di 6 gradi sulla scala Richter. All'Aquila anche il simbolo della città, Porta Napoli, è venuto giù, come molti palazzi del centro storico, crollato anche parte di uno studentato, ed è lì che ora si stanno radunando i genitori dei ragazzi che ancora mancano all'appello. Ma la situazione è drammatica anche nei paesini, nelle frazioni intorno al capoluogo abruzzese. Onna è quasi rasa al suolo ed è crollato anche il ponte sul fiume Aterno. Fortunatamente l'auto che stava passando in quel momento è stata estratta dal fiume e sono vivi i passeggeri. A San Gregorio anche una bimba russa c'è tra le vittime, mentre la sorella gemella si è salvata. Sarebbero 10 almeno le giovani vittime appunto di questo dramma. E come sentivate dai titoli, è anche questo il momento della solidarietà e dei soccorsi. Il ministro Sacconi ha invitato tutti a donare laddove è possibile il sangue per cercare di aiutare i feriti del sisma dell'Abruzzo, e tutta la comunità internazionale, dal presidente russo Medvedev a Barroso, al presidente egiziano Mubarak, hanno telefonato al capo dello Stato napoletano per esprimere solidarietà e per annunciare l'invio di propri soccorsi. Dunque l'Italia intera, ma anche la comunità internazionale, si mobilita per andare in soccorso della popolazione dell'Abruzzo. Grazie Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Naturalmente restate con noi perché Radio 24 sta dedicando una lunga diretta a questo argomento, con testimonianze, anche con le vostre telefonate. Se volete potete intervenire all'800 24 00 24. Ora invece le altre notizie. Un documentario mandato in onda dalla televisione di Stato russa accusa gli Stati Uniti di usare la base militare di Manas in Kirghizistan per spiare la Russia e la Cina. Nel film mostrato ieri sul canale televisivo Rossia si indica un edificio utilizzato per la sorveglianza elettronica. Nel video compare anche una donna che avrebbe lavorato nell'ambasciata americana come agente della CIA. Il portavoce della base naturalmente ha categoricamente smentito tali informazioni. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha iniziato ufficialmente ad Ankara la sua visita ufficiale di 2 giorni in Turchia, recandosi al mausoleo di Kemal Atatürk, il fondatore del moderno Stato turco. Subito dopo Obama è stato ricevuto dal presidente Gül, con cui ha appunto un colloquio. Vedrà naturalmente in giornata anche il premier Erdogan. Sono 270 le persone che da varie regioni d'Italia si sono presentate questa mattina al Palazzo di Giustizia di Torino per costituirsi parte civile nell'udienza preliminare per i morti d'amianto negli stabilimenti italiani della Eternit. Le persone offese sono quasi 2.900 e per fronteggiare il flusso il Tribunale ha messo a punto una serie di misure straordinarie. Fra i presenti anche il presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso. 5 presunti componenti di un gruppo camorristico collegato al clan dei Casalesi sono stati arrestati a Modena. Avrebbero operato nella zona da più di 20 anni. Sarebbero vicini al figlio del capo indiscusso, Francesco Schiavone, detto Sandokan. presentata l'istanza di scarcerazione per Mario Chiesa in carcere dalla settimana scorsa nell'ambito di un'indagine della procura di Busto Arsizio su un traffico illegale di rifiuti. Il suo avvocato Di Noia, che fu avvocato storico dell'ex uomo simbolo di Mani Pulite Antonio Di Pietro, ritiene che con l'interrogatorio di venerdì scorso e la produzione di numerosi documenti siano venuti meno tanto gli indizi di colpevolezza quanto le esigenze cautelari. Ed è tutto per questo GR24. Vi ricordo che stiamo dedicando un lungo speciale al devastante, ormai così si può definire, terremoto di questa notte in Abruzzo. Vi ricordo anche che fra poco è prevista una conferenza stampa, prevista appunto in questi minuti, da parte del Premier Silvio Berlusconi, Bertolaso della Protezione Civile e molti altri ministri presenti sul luogo. Naturalmente ve la faremo ascoltare in diretta. GR 24, il sole 24 ore. Buona giornata dalla redazione di GR 24, questa è l'edizione delle 13.30. Ecco le notizie principali della giornata. Naturalmente in primo piano il terremoto che ha colpito la provincia dell'Aquila. Tra poco continua il nostro speciale, ma facciamo il punto della situazione con Raffaella Calandra. 50 morti, 50.000 sfollati per un sisma che ha sconvolto l'intera regione dell'Abruzzo. Spettrale è il paesaggio del paesino di Onna, così come lo descrivono chi ci è arrivato qui, dove il centro è stato praticamente cancellato. 7 i corpi senza vita estratti dalle macerie e ora adagiati, coperti sotto un albero, e sotto un lenzuolo c'è anche una bimba di 8 mesi accanto ad un altro bambino. Sarebbero almeno 10 i più giovani, i più piccoli, che hanno perso la vita nel terremoto di questa notte di 6 del sesto grado della scala Richter. In questo momento, mentre si scava dall'Aquila e nei 26 comuni colpiti dal sisma, da tutta Italia stanno arrivando squadre di soccorso ed è anche una gara tra le varie associazioni per offrire ospitalità ai tantissimi sfollati che hanno perso la casa. Il ministro Sacconi invita tutta l'Italia a cercare di donare il più possibile il proprio sangue per andare in soccorso delle strutture ospedaliere che stanno accogliendo tutti i feriti, ed è una gara anche di solidarietà internazionale, dal presidente russo a quello francese, a quello portoghese. Da ovunque arrivano le condoglianze e le offerte di aiuti per l'Italia, e anche il presidente degli Stati Uniti Obama ha fatto sentire la sua voce. L'Unione Europea assicura il proprio aiuto nel caso di richiesta. Si aspettano gli aggiornamenti nella conferenza stampa della Premier e del capo della Protezione Civile. È tutto. Bene, grazie, ci risentiamo anche più tardi. Naturalmente, come vi dicevo, tra poco continua il nostro speciale. Abbiamo parlato del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha iniziato oggi ad Ankara la sua visita di 2 giorni in Turchia, recandosi prima al mausoleo di Kemal Atatürk, il fondatore del moderno Stato turco. Subito dopo Obama è stato ricevuto dal presidente Abdullah Gül. Pirati somali hanno sequestrato una nave britannica gestita da una società italiana. La forza internazionale dunque non riesce a bloccare l'opera dei pirati, che sempre oggi hanno catturato un peschereccio con bandiera di Taiwan. E sempre oggi si è avuta notizia del sequestro sabato di uno yacht francese, giorno in cui era stato catturato anche un cargo tedesco. Sono 270 le persone che da varie regioni d'Italia si sono presentate questa mattina al Palazzo di Giustizia di Torino per costituirsi parte civile nell'udienza preliminare per i morti a causa dell'amianto negli stabilimenti italiani della Eternit. Le persone offese sono quasi 2.900. 5 presunti componenti di un gruppo camorristico collegato al clan dei Casalesi sono stati arrestati a Modena. Avrebbero operato nella zona da più di 20 anni, sarebbero vicini al figlio del capo indiscusso Francesco Schiavone, detto Sandokan. Era questa l'ultima notizia alle 13.36 minuti. Il GR torna alle 14. Adesso la linea di nuovo al nostro speciale.